E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso a mie care. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi. Là, sola, una casa bisbiglia. Sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla al primo piano. S'è spento. È l'alba. Si chiudono i petali, un poco gualciti. Si cova dentro l'urna molle e segreta. Non so che felicità nuova. Il gelsomino notturno, dalla raccolta Canti di Castelvecchio, 1903, di Giovanni Pascoli, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNC ND.